9 in punto, la versione di Oscar. Torno a salutarvi dallo studio e a ricordarvi i numeri di telefono presso i quali chiamare per le questioni che riguardano oggi il tema che abbiamo scelto per la nostra puntata, l'energia, quindi la bolletta del gas o dell'energia elettrica, per intenderci, per voi consumatori, e tutto ciò che a vostro giudizio funziona o non funziona abbastanza sull'apertura del mercato energetico italiano. Il numero è 800 24 00 24 e intanto vi presento gli ospiti. Abbiamo con noi, io ne sono molto felice, il presidente dell'autorità dell'energia elettrica e del gas, Alessandro Ortis. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei direttore e a tutti coloro che ci ascoltano. E poi abbiamo Carlo Sagnaro che è direttore del Dipartimento Ecologia di Mercato dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Ingegner Sagnaro. Buongiorno. Presidente, lei ieri ha tenuto la sua annuale relazione in cui si fa il punto, per così dire, delle misure assunte dall'autorità, dello stato dell'arte dei suoi interventi nei diversi segmenti regolamentati di questo settore dell'energia, che è un po' complicato per i non addetti ai lavori, perché bisogna distinguere il mercato all'ingrosso, quindi i mercati dello distributivi, dello stoccaggio, il mercato di un dispacciatore terzo autonomo rispetto a chi produce l'energia elettrica, mentre il dispacciatore autonomo non c'è nel gas. Poi bisogna distinguere invece l'apertura del mercato al consumatore, sia per le famiglie che per le imprese, i mercati che sono anch'essi di tipo diverso, come quelli del gas e dell'energia elettrica. Insomma, sono tante questioni complicate, perché poi in bolletta, quando arriva al consumatore la bolletta, è un po' complicato capire che in bolletta c'è da una parte la tariffa che stabilisce l'autorità, sentiti gli operatori, poi dall'altra c'è il prezzo dell'energia e le solite questioni, ma come, sta scendendo il prezzo oppure non ci traducete subito la discesa nel prezzo della bolletta? Poi ci sono tanti oneri di sistema per ragioni complicate e così via, quindi insomma la materia è complessa. Però noi le chiediamo inevitabilmente di partire, lei immagina, siamo giornalisti, da ciò per cui la sua relazione oggi è finita su tutti i giornali. Io non le chiedo una polemica, perché ovviamente io, a chi non avesse ancora letto i giornali, ricordo i titoli che trovate su tutti i quotidiani oggi, sono, cito solo quello del Sole: lite Scaiola Ortis per la rete Snam. Il punto è che il presidente dell'autorità, e qui mi taccio e poi gli passo la parola, dal mio punto di vista, anche per questo lo abbiamo invitato oggi, siamo molto felici, è un presidente che vive e pratica l'autorità autonoma e indipendente con il fiero rispetto di questi due aggettivi, cioè dà le sue analisi come dovrebbe procedere l'apertura del mercato. Talvolta capita che di fronte a aperture che l'autorità promuove e propone entri in campo questo interesse dei grandi soggetti del mercato dell'energia, che poi sono grandi soggetti a controllo pubblico. E il ministro Scaiola ieri gli ha detto, di fronte all'ennesima riproposizione della separazione della distribuzione del gas, quindi la rete che fa capo a Snam, dal Eni, che lo importa in Italia, quindi con una integrazione verticale di filiera, il presidente dell'autorità ricorda da tempo che bisogna separare questi due soggetti, e ogni volta la politica dice l'autorità esula dalle sue competenze perché danneggia un campione nazionale. Chiusa la parentesi, viva viva il presidente Ortis che ha la schiena dritta. Presidente, le chiedo solo un commento su questo, non di risposta al governo, perché tanto immagino che non me la darebbe. Come mai però su questa questione della separazione della rete di distribuzione del gas dal grande gruppo Eni non si fanno passi avanti da anni? Io credo che valga la pena connettersi a quello che lei diceva all'inizio, alle bollette nostre, alle bollette dei consumatori, perché vede, la bolletta in fondo è la somma di alcuni elementi. Noi abbiamo l'energia che è il gas come materia prima, oppure quella che viene prodotta nelle centrali, e se è energia elettrica, e questa energia, gas, energia elettrica, deve arrivare ai contatori di casa nostra, al nostro consumo. In mezzo c'è un sistema cosiddetto infrastrutturale, vale a dire i concorrenti che si fanno concorrenza a livello di produzione di materia prima e di produzione elettrica, devono comunque utilizzare delle infrastrutture intermedie, i fili, i tubi, per arrivare fino a casa nostra. Ebbene, queste infrastrutture che sono nel mezzo e che sono a questo punto non duplicabili, sarebbe una grande diseconomia, sono regolate e tariffate, e devono essere infrastrutture che devono essere disponibili in modo assolutamente neutro, imparziale, per tutti i concorrenti in gioco. Quindi ognuno di questi deve poter accedere, secondo delle regole che sono fissate dall'autorità di qualità del servizio e, ripeto, di tariffe, in modo tale da poter sviluppare il massimo della concorrenza. Ora, è evidente che queste infrastrutture obbligatorie, monopolio si dice tecnico o naturale se si vuole, è bene che siano terze e quindi non in mano a uno solo dei concorrenti in gioco. E questo è successo nel settore elettrico con l'attivazione di Terna, con la cessione di Terna da parte dell'Enel e la creazione di una società indipendente che in questo momento sta gestendo la rete elettrica in modo terzo, naturalmente in mani solide, perché si tratta di infrastrutture strategiche importantissime per il paese e quindi in questo momento in mani solide e quindi sotto in fondo al controllo italiano, vale a dire Cassa Depositi e Prestiti nella fattispecie, eccetera. Ecco, io credo che simmetricamente si debba ragionare nello stesso modo per quanto riguarda l'infrastruttura. Ma in definitiva l'Eni le risponde, dice: ma io non sono affatto monopolista, ci sono più di 6.500 concessioni locali relative alla distribuzione del gas, più di altri 300 soggetti in Italia. Ma questa è la distribuzione, cioè a valle la bassa e media pressione, ma io sto parlando della rete di trasporto. No, ma lo dico apposta che così a casa la gente abbia chiaro, sì, che stiamo parlando di segmenti diversi. Sì, di segmenti diversi, come, ecco, forse è più evidente a chi ci ascolta la similitudine elettrica, questi grandi cavi che si vedono in campagna che trasportano la corrente elettrica e questi sono il trasporto, su questi comunque devono tutti andare. E poi devono arrivare alle nostre case attraverso i distributori locali e sono le piccole reti. E la stessa cosa è nel gas. Quindi il punto principale, l'elemento portante è la rete di trasmissione nella quale chi compete immette il proprio gas di importazione oppure tramite i gasdotti oppure tramite i rigassificatori, che dovrebbero essere più numerosi di quelli che non abbiamo in questo momento, e quindi immettono in questo sistema il loro gas e devono poterlo riprendere poi a valle per portarcelo alle loro condizioni competitive nelle nostre case. Aggiungo, nel gas poi c'è un elemento in più, cioè c'è la necessità di un servizio che si chiama stoccaggio, che è importante anche per la logica competitiva, perché si sa che si immette il gas negli stoccaggi durante l'estate, quando ci sono bassi consumi e buoni prezzi, per poi prelevarlo e distribuirlo durante l'inverno. Quindi anche la disponibilità di stoccaggio del gas è uno strumento competitivo nelle mani dei concorrenti, che devono essere messi in condizione di pari opportunità di partenza e quindi poi lasciare che si sviluppino e si combattano, lo dico in positivo, al fine di offrire a tutti noi consumatori le condizioni migliori che sono in grado di fare. Presidente, un'altra domanda sempre su come la politica le risponde quando fa questi interventi, poi passiamo a Stagnaro. In definitiva è come se la politica italiana dicesse: noi in realtà abbiamo commesso un errore quando nel mercato dell'energia e soprattutto nell'energia elettrica, soprattutto in quello della produzione di generazione di energia elettrica, ci siamo dati una quindicina d'anni fa oramai come mercato di riferimento un orizzonte di mercato nazionale, mentre in realtà altri grandi paesi europei quasi nessuno lo ha fatto, non in Francia, non in Germania, e quindi Francia e Germania hanno scelto un mercato di riferimento molto più europeo, rafforzando i loro campioni nazionali, incumbenti, insomma gli ex monopolisti pubblici, oppure raggruppando molte energetiche locali in grandi gruppi, scatenandole con un'economia di scala in una massa critica di dimensioni continentali. Noi invece ci siamo dati quest'idea dannata della concorrenza a livello nazionale e però ci siamo rimpiccioliti, rimpicciolendo cioè la massa critica dei nostri due giganti Eni ed Enel rispetto alla grande sfida europea. In definitiva, quando che il ministro Scaroli ieri ha detto: lei attento a non ledere gli interessi dei campioni nazionali, è come se facesse questo ragionamento, ma c'è un punto di fondo che riguarda scelte diverse, dissimmetriche, asimmetriche, fatte dall'Italia rispetto a Francia e Germania, i consumatore naturalmente di questo non è che veda molto il risultato, perché il consumatore dice avremo più mercato ma io l'energia la pago di più, perché naturalmente qui la questione è il mix energetico a quel punto. Però su questo punto lei che cosa risponde? Bene, la bolletta è fatta di una somma, come lei diceva, di componenti. Due componenti, una componente importantissima è la componente energia, ripeto, oneri di sistema, tariffe per le infrastrutture di cui abbiamo parlato, e poi, a parte le tasse, c'è l'energia. Ora, sull'energia si gioca la concorrenza, e sull'energia ci sono due elementi che giocano molto nel confronto anche internazionale. Il primo è il mix delle coperture, che tipo di scelte noi facciamo sulle tecnologie e le fonti, e questo è un tema di grande importanza politica, di grande attualità, e si gioca sul tipo di soluzioni, di centrali, di combustibili che si intendono utilizzare. Poi c'è l'efficienza del mercato, fare in modo che la concorrenza che si deve sviluppare a livello della produzione, per esempio elettrica o delle materie prime, si sviluppi in un modo molto efficiente. E questo è il punto. E su quanto osservava prima, vorrei aggiungere che, per esempio, nel sistema elettrico noi assistiamo invece non a un'implosione su una problematica solo nazionale, assistiamo per esempio nel caso di Enel a un vigore crescente di questo nostro campione nazionale, il quale ha già ceduto la rete di trasmissione e forse anche grazie a quei soldi incassati è in grado adesso di diventare veramente un attore significativo a livello europeo. Attenzione, poi ci sono anche i campioni, vedi il caso di Francia, che sono così stati costantemente, anche a giudizio della Commissione europea, protetti su mercati come dire, tendenzialmente più chiusi. E quindi e questo è il punto, cioè io credo che le capacità competitive di un'azienda, di un campione, si sviluppano certamente, trovano più radici e più alimenti in contesti liberalizzati dove c'è l'allenamento alla competizione piuttosto che in contesti assolutamente chiusi e monopolisti. Questo lo dimostra la storia economico-industriale dei nostri tempi. Ecco perché io credo che si possa immaginare questo stesso percorso anche nel gas, come è stato fatto nel settore elettrico. Noto anche che in fondo i grandissimi concorrenti del nostro campione nazionale gas, Eni per intenderci, esso, Shell, Chevron, Conoco, British Petroleum, Total, British Gas, sono tutti soggetti potenti, capaci sullo scacchiere internazionale di competere, e nessuno di loro ha una rete domestica a casa sua. Stagnaro, come mai proprio sull'autorità dell'energia finisce per concentrarsi una reattività e una polemica maggiore rispetto alle altre autorità, secondo lei? In definitiva, poi, per esempio, anche nelle misure legislative recentemente approvate dal governo, ne parleremo più avanti, in cui si mette mano al delicato questione della ripartenza dell'energia nucleare, io sono molto a favore di questo, mi chiedo se vada tutto bene quello che c'è nel disegno di legge, però anche lì per l'ennesima volta si introducono nuove figure istituzionali, un'agenzia per il nucleare, si rismonta la Sogin, che lo ricordo è la società un po' travagliata che si occupa del decommissioning delle ex centrali nucleari. Come mai la politica sull'energia tende a essere più reattiva rispetto alle altre autorità, secondo lei? Beh, io credo che ci siano tre ragioni. Una è che il settore energetico è al centro di una serie di ripensamenti politici ed economici in senso ampio, e che quindi portano alla politica, al governo, alla maggioranza a incontrare sulla propria strada, anche non volendolo talvolta, le posizioni dell'autorità per l'energia. Il secondo punto è che l'energia è un settore molto importante, si diceva una volta strategico nell'economia di un paese, e quindi è naturale che sia oggetto di attenzioni comparativamente maggiori rispetto ad altri ambiti. È naturalmente da vedere se dalla reale o supposta strategicità del settore energetico debba dipendere un maggior livello di interventismo, questo è evidentemente un discorso diverso, però fatto sta che banalmente, leggendo le pagine dei giornali, le questioni energetiche sono in qualche maniera sovrarappresentate. Terzo punto, e questo va a merito del Presidente Ortis e del Collegio, l'attuale autorità dell'energia ha sicuramente voluto interpretare nel senso più profondo e più ampio la propria indipendenza, ed è ovvio che nel momento in cui da parte della politica si vuole intervenire sul settore riformandolo nel bene o nel male, verso obiettivi desiderabili o meno e con mezzi corretti o inefficaci, è ovvio che in questo contesto avere un'autorità docile può essere, come dire, un ostacolo in meno, piuttosto che avere al contrario un'autorità che ha delle posizioni, intende farle valere e soprattutto, almeno in quello che è il suo perimetro, non vuole farsi pestare i piedi. Io devo dire sinceramente a chi ci ascolta che spesso il Presidente Ortis è stato un collegio un po' magro, per così dire, suo, perché per molto tempo la politica non lo ha rinnovato e completato, si è esposto al rischio di essere mandato a casa, eppure ha continuato a dire le cose come stavano, e questo mi piace molto. Abbiamo un ascoltatore, Fabrizio da Lecco. Prego Fabrizio, ci dica. Buongiorno, la ringrazio, ringrazio il dottor Ortis di ascoltare questa mia odissea. Ecco, premetto che la mia odissea riguarda in particolare il passaggio da una società all'altra. Visto che parliamo di campioni nazionali, io sono il classico caso che ha chiesto il passaggio da Enel, che è... Stiamo parlando di un'utenza familiare o di un'impresa? Utenza familiare. Sì. Utenza familiare. Io ho aderito online nel marzo del 2008, online, all'offerta Eni prezzo certo gas e prezzo certo power per entrambe le bollette. Ho compilato online tutta la documentazione, mi è stata inviata per una firma da parte di Eni nel mese di giugno del 2008 e finalmente quindi ho compilato tutto ciò che doveva essere compilata, compresa la bollettazione bancaria, la domiciliazione sul conto corrente per non avere problemi, e ad agosto del 2008, quindi oramai quasi un anno fa, ho ricevuto la lettera di Eni, Eni Power, che mi indicava che dal 1 settembre 2008 sarei diventato utente Eni sia per il gas che per l'elettricità. E invece? Attribuendomi anche un numero cliente, e da lì cominciano i problemi, perché io seguo tutte le cose, so che comunque ci vogliono dei mesi per il passaggio. Ho iniziato verso novembre-dicembre a telefonare al call center dell'Eni, perché pur avendo ricevuto le fatture di chiusura di Enel, che le fatture di chiusura devo chiedere di andare un po' al punto, perché se è chiaro che andiamo a che punto siamo dopo un anno e tre mesi? Ecco, siamo al punto che dopo aver fatto numerose telefonate e mandato fax a Eni non ho ricevuto nessuna risposta. Finalmente il 16 aprile ho mandato per conoscenza anche all'Authority dell'Energia il numero di fax di via Cavour a Milano, tutta la documentazione, e mi ha risposto semplicemente l'Authority dell'Energia il 16 maggio, che quindi esattamente un mese dopo, che nel giro di 30 giorni o l'Authority o Eni si sarebbero fatti vivi. Sono passati altri due mesi, perché oggi siamo al 15 di luglio. E nel frattempo non si è fatto vivo nessuno. Nel frattempo non è successo nulla. Benissimo, benissimo. Ecco, tornati in studio, stiamo parlando di energia. Abbiamo un altro ascoltatore per un'altra domanda per Ortis e per i nostri ospiti. Lucio dalla provincia di Foggia. Prego Lucio. Pronto? Parli, prego. Pronto? Lucio. Buongiorno buongiorno a tutti. Volevo porre solo una questione per quanto riguarda le forniture, diciamo, di gas, utenze domestiche ovviamente, dove praticamente nel calcolo sostanzialmente della bolletta si fa riferimento ovviamente al potere calorifico del gas, diciamo vettoriato, e quindi viene consegnato a casa. E mi risulta che i valori riportati in bolletta sono, rispetto ai valori medi, diciamo, del potere calorifico del gas o della miscela di gas, che ci sono anche altri prodotti che servono, diciamo, per tenere in pressione le tubazioni, sostanzialmente siamo su un 10-15% di kilocalorie in meno rispetto a, cioè in più segnato sulla bolletta, rispetto a quello che è il valore reale, che è intorno agli 8.400-8.500. Quindi lei dice, ma chi è che controlla davvero i valori? Chi è che controlla davvero i valori nella bolletta? È questa la domanda, mi pare di capire. Questa è è una cosa che veramente uno, l'utente non ha nessuna possibilità ovviamente di controllo né verificare se qualcuno effettua, diciamo, dei controlli periodici. E va bene, noi abbiamo il presidente, glielo giriamo subito queste due questioni, uno che riguarda lo switch, il cambio di utente nel mercato finale, con l'esperienza di questo ascoltatore, insomma 16 mesi sono tanti, e poi quest'altra domanda tecnica invece, ma su veramente quello che ci arriva distribuito, ma chi è in grado di dirci se il contatore dice la verità? Che dice, presidente? Ottima questa domanda, comincio da questa seconda per chiarire. Noi abbiamo in casa un contatore, il contatore che fa girare i numerini. Quelli numerini che noi vediamo sul contatore sono i metri cubi che passano nel contatore. E la correttezza del funzionamento del contatore in sé, la macchinetta che dà i numerini, è soggetta alle verifiche della metrologia legale, quindi piombature, controlli, omologazione, che fanno capo poi al Ministero dello Sviluppo Economico. Quello che noi facciamo è, quel numerino deve essere tradotto proprio in calore che la gente, che noi paghiamo. Ecco allora che quel numerino è soggetto a due passaggi. Il primo va normalizzato perché il contenuto di molecole nello stesso metro cubo, e quindi in fondo anche la quantità di calore, dipende dalla temperatura e dalla pressione, quindi dipende da dove siamo, come altitudine e anche come latitudine. Allora c'è un correttore che deve essere indicato specificatamente nella bolletta, perché è predeterminato, che porta, corregge quel dato per correttezza. In più c'è quello che dice il signor Lucio, il potere calorifico. Ecco, per il potere calorifico ci sono degli standard e delle tolleranze molto strette che devono essere rispettate dai produttori. Giustamente, signor Lucio si chiede, ma chi controlla queste cose? Bene, noi abbiamo un piano di controllo con la Guardia di Finanza. È evidente che questo è un controllo molto vasto in tutto il territorio, e la Guardia di Finanza interviene, controlla insieme ai nostri tecnici, naturalmente a campione o su segnalazioni, ma comunque con un andamento, come dire, rutinario, che effettivamente il potere calorifico sia quello, altrimenti l'euro per metro cubo non è quello che deve essere patuito. Quindi volevo tranquillizzare il signor Lucio che il piano di controllo da noi viene fatto insieme alla Guardia di Finanza. Naturalmente non si può controllare tutti i contatori dei 19 milioni di utenti simultaneamente ogni giorno, c'è un processo di campionatura, ma le aziende sanno che se vengono colte in fallo pagano moltissimo, perché le sanzioni sono molto salate, quindi stanno molto attenti. Voglio anche dire al signor Lucio che c'è un altro tipo di controllo molto importante che sempre con la Guardia di Finanza noi facciamo, è l'odorizzazione. Sembra una cosa ridicola, ma siccome il gas naturale non ha odore, c'è l'obbligo per i distributori di inserire un componente che si fa sentire al naso, e allora quel componente deve essere messo in certe quantità, altrimenti è inutile. E anche su questo, che è aspetto molto delicato perché attiene addirittura alla sicurezza, c'è un piano di controlli della Guardia di Finanza. Presidente, io la devo interrompere perché noi dobbiamo tecnicamente richiamarla, perché la voce c'ha dei cambi di intensità e a casa non ascolta bene. Mentre la stiamo richiamando, io presento ai nostri ascoltatori, ci ha raggiunto in collegamento, oltre sempre a Carlo Stagnaro che era in attesa e torniamo con lui, Stefano Saglia, sottosegretario allo sviluppo economico, che ha la delega energia. Buongiorno Saglia. Buongiorno direttore. Ecco Saglia, senta, uno dei punti che ha toccato Ortis ieri, ma è anche uno dei punti per tentare di renderci meno dipendenti dall'estero e avere la bolletta che costa meno, è quanto può finire in bolletta nei prossimi anni per sostenere, per incentivare tutte le energie rinnovabili che tutti dichiarano di volere di più, perché vogliamo tutti vivere in un mondo più verde, eccetera, eccetera. Il presidente dice attenzione che questi oneri che vanno finanziati quindi dal consumatore, sono oneri di sistema, possono arrivare a essere 7-8 miliardi l'anno di qui a pochi anni in bolletta. Ma queste rinnovabili, io sono un nuclearista, sono felice che nei recenti provvedimenti del governo riparta il nucleare in Italia, ma arrivare a 7-8 miliardi di incentivi annuali a spese del contribuente per le rinnovabili, ma vale davvero la pena? Ci spiega? Allora, vale la pena non per risolvere il deficit energetico, perché il contributo che possono dare le fonti rinnovabili alla produzione elettrica nazionale è un contributo molto limitato. Siamo nell'ordine di pochi punti percentuali, anche se l'obiettivo ambizioso è che entro il 2020 si arrivi al 20% secondo la direttiva europea. Però perché ne vale la pena? Ne vale la pena perché è un settore nel quale c'è un grandissimo spazio di investimenti e di innovazione e anche di applicazioni industriali. Quello che dice il Presidente Ortis è vero, perché ancora qualche anno fa, anche quando ero in Commissione Attività Produttiva, avevamo aperto un focus su questo problema. I cittadini ignorano che nella loro bolletta, tra le tante cose, c'è anche una componente che va a finanziare questo tipo di realizzazioni, però, e sono risorse molto molto ingenti. Però le posso fare un'osservazione, lei sa meglio di me, perché lei si occupa seriamente di questo settore da parecchi anni, che noi per anni, per decenni, io lo considero uno scandalo, io però sono un giornalista, posso dare giudizi che giustamente i politici si devono guardare da essere così traumaticamente polemici, però è uno scandalo, noi da tanti anni alimentiamo con onere di sistema, pagati appunto in bolletta, una roba che tecnicamente si chiama CIP 6, sì, e in realtà dovrebbe, anche quella è spacciata come onere di sistema per finanziare energie rinnovabili o assimilate. Tramite questo assimilate è passato un sistema, in buona sostanza lo traduco per chi è a casa in maniera un po' polemica, abbiamo associato tutti quelli che all'epoca non erano neanche concorrenti del monopolista elettrico e li abbiamo associati a una bella greppia pubblica in cui tutti d'accordo li abbiamo tenuti buoni, con cose che di rinnovabile hanno poco o niente. Allora, l'esperienza è un po' questa del CIP 6. Cosa ci garantisce che non verrà ripetuta? Beh, la garanzia è che oggi non esiste più questa forma, o meglio, è in via di esaurimento. Grazie anche all'intervento dell'autorità sono stati risparmiati circa 600 milioni di euro l'anno scorso su questa componente. È una componente che è in via di esaurimento, ma anche lì è divertente, o meglio, è tragico ricordare perché è stata inventata. Quando nell'87 ci fu il referendum sul nucleare, immediatamente dopo vennero spente le centrali nucleari, quindi ci si accorse che eravamo in deficit di energia elettrica. E allora qual era la via più semplice? Quella di fare produrre energia elettrica ad alcuni impianti industriali, come ad esempio quelli legati alle raffinerie di petrolio. Questo ha comportato appunto quella decisione CIP 6, che è stata una tragica decisione perché ha portato a incentivare delle fonti che non sono rinnovabili, ma che sono appunto assimilate. Oggi questo non accade più, però gli oneri che noi paghiamo per le fonti rinnovabili sono comunque molto consistenti e sono destinati ovviamente a crescere. Per questo noi entro il 31 dicembre dell'anno prossimo dovremo rivedere le tariffe incentivanti, cercando di trovare un equilibrio per fare in modo che questa industria possa andare avanti. E dall'altro non gravare sulle tasche dei cittadini in maniera eccessiva. Quello che manca nell'energia è una grande operazione di trasparenza, cioè noi dobbiamo dire anche ai cittadini che è bello poter immaginare un intervento di energia pulita su tutto il territorio nazionale, ma dobbiamo anche spiegare loro quanto costa e se sono disposti a pagarlo in bolletta, perché poi altrimenti rischiamo di raccontare delle favole. Senta Saglia, oggi il ministro Scajola, approfittando del fatto che ieri era ospite in una centrale nucleare controllata da Enel all'estero, in questi anni Enel ha ripreso una capacità di gestione di impianti nucleari, appunto entrando, compartecipando o controllando imprese europee che hanno mantenuto aperta la tecnologia nucleare, ha detto attenzione sui nuovi siti delle nuove centrali che pensiamo di realizzare in Italia, attenti ai veti, perché poi il governo su questo invoca l'interesse strategico nazionale e li sceglie lui. Ma possiamo davvero stare sicuri, sottosegretario Saglia, di non dover assistere di nuovo a degli enormi bracci di ferro con tutti che si tirano indietro e questo nucleare ci troviamo per l'ennesima volta come una promessa che non si avvera? Allora, intanto non è solo una promessa, perché è una legge dello Stato, quindi non è poco. Noi adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare i decreti legislativi per innanzitutto costituire l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. L'Agenzia per la Sicurezza Nucleare è la precondizione per realizzare qualsiasi altro passo verso il nucleare, perché noi innanzitutto dobbiamo garantire ai cittadini che il sistema nucleare in Italia avrà degli standard qualitativi di livello internazionale. Anche la questione dei siti è una questione successiva, noi dobbiamo costruire tutta l'architettura industriale e internazionale secondo i maggiori standard europei. Poi su questo noi abbiamo fatto una legge rigorosa perché consente allo Stato di intervenire anche in maniera, se vogliamo, dirigistica. ma questo non vuol dire che non cerchiamo un dialogo con i territori, perché dobbiamo far capire che ospitare una centrale nucleare non solo è sicuro, ma è un'opportunità di sviluppo enorme. Lei pensi solo il fatto che per 5 anni 5.000 persone lavorano in un cantiere sofisticatissimo e di altissimo livello. E poi pensiamo a quello che saranno i costi energetici e le compensazioni di quel territorio. Cioè, laddove per esempio in Francia sono state realizzate, addirittura vi è stato un concorso tra soggetti, tra comuni che si in qualche modo disputavano il fatto di poterlo ospitare. Non arriveremo a quel livello in Francia da 35 anni che fanno il nucleare, però intanto cominciamo a spiegare che la sicurezza è assoluta, pericolo incidenti nessuno, anche perché se lei pensa che il contenitore del nocciolo addirittura riesce a sopportare un Boeing 747 che si lancia contro, proprio in virtù delle norme antiterrorismo. Quindi prima di tutto bisogna parlare di salute e sicurezza, poi parliamo di territorio, poi parliamo di tecnologia, poi parliamo di sviluppo e occupazione. Tutto questo è possibile attraverso questa realizzazione. Stagnaro, possiamo dal suo punto di vista, diciamo, osservatore indipendente dell'apertura al mercato e diversi segmenti del mercato dell'energia, diciamo, se la quantificazione temporale del governo fosse rispettata, come io mi auguro personalmente, però sa, l'Italia poi consente anche di dubitare non della buona fede ma del fatto che gli ostacoli imprevisti si moltiplicano, però quanto bisogna aspettarsi che venga diminuita, diciamo, la dipendenza energetica in termini di bolletta di sbilancio annuale dall'estero nella produzione di energia italiana attraverso il nucleare? Perché è conveniente da questo punto di vista? Guardi, se la domanda è quanto, le rispondo che ho lasciato a casa la sfera di cristallo. Se la domanda è se, io credo che il nucleare possa dare un contributo molto importante per due ragioni differenti essenzialmente. La prima è che il nucleare, così come le rinnovabili, è una fonte priva di emissioni di gas serra e quindi potrebbe aiutare un paese che è come il nostro fortemente dipendente dagli idrocarburi, in particolare dal gas nella generazione elettrica, a raggiungere gli obiettivi europei che sono molto complessi e molto costosi. Secondariamente perché il nucleare, per le sue caratteristiche tecnologiche e finanziarie, è una fonte che bene si presta a coprire il cosiddetto carico di base, cioè quella richiesta di elettricità che si manifesta in tutte le ore del giorno e in tutti i giorni dell'anno. E in questa maniera può consentire di stabilizzare i prezzi, di renderli maggiormente prevedibili e in ultima analisi di ridurre la volatilità che abbiamo osservato sulla borsa elettrica e che non è normalmente un fattore di agevolazione degli investimenti in tutti gli altri settori, perché appunto determina incertezza. Detto questo, e tornando un attimino al quanto, io credo che molto dipenda dalla volontà delle imprese che possono permettersi di investire nel nucleare, che sono poche perché il nucleare è una tecnologia ad alta intensità di capitale, e a sua volta questo dipende dalla capacità del governo e, per quel che le compete, dell'opposizione di creare uno scenario normativo e, in seconda battuta, regolatorio che sia stabile nel tempo. Sì, sono d'accordo anch'io che questo può modificare significativamente la redditività degli investimenti e la voglia di farli davvero. Eccoci tornati in studio, oggi stiamo parlando di energia col presidente dell'autorità dell'energia Ortis, con Stefano Saglia, sottosegretario allo sviluppo economico, con Carlo Stagnaro del Bruno Leoni, specializzato in questioni energetiche, due ascoltatori e poi l'ultimo giro dei nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto Enrico da Prato, ci dica Enrico. Mi sente? Sì, prego, dica. Buongiorno Giannino, salve. Ma io senta, le parlo da operatore di settore. Io sono molto soddisfatto dell'operato del governo perché sicuramente questa è una svolta epocale e il nucleare serve. Tuttavia ho una perplessità che è abbastanza forte. Noi abbiamo una serie di impianti di grosse dimensioni in fase di autorizzazione un po' a giro per tutta l'Italia. A parte una zona dove sembra essere propositivi, le posso garantire che gli ostacoli politici sono di dimensioni quasi sempre insormontabili. Quando dice impianti, di che tipo di impianti si riferisce? Noi siamo operatori nel settore delle energie rinnovabili, quindi non trattiamo niente che riguardi il fossile. Stiamo parlando di idroelettrico, mini idro nello specifico, sì, e di fotovoltaico, compreso anche l'eolico che si tratta indirettamente per consulenza su esterni. però ad oggi, dopo anni di progettazione e impianti progettati uno dietro l'altro, decine potremmo dire, il risultato è stato di un impiantino. E la farraginosità degli iter autorizzatori è locale o centrale? Allora, a livello, questo è interessante, perché a livello centrale esistono delle leggi che sono estremamente chiare, incentivano e invogliano l'imprenditoria a investire in questo settore. Quando poi ci troviamo a scontrarci con tutti quanti i particolarismi locali, vediamo che il locale prevale sul generale. Nonostante queste opere siano considerate di indifferibili e urgenti, per le quali verrebbe anche previsto l'esproprio alla legge nazionale sugli eventuali terreni di privati, quando poi parliamo con il locale vediamo che queste leggi nazionali praticamente vengono disattese regolarmente. Grazie Enrico, molto chiaro, molto chiaro. Lei dice c'è stato un rafforzamento del potere decisionale a livello centrale, ma il locale è ancora in grado di dire di no e dice di no. Quinto da Rimini, prego signor Quinto, ci dica. Buongiorno dottor Gerino, lei e i suoi ospiti e gli ascoltatori. Io volevo fare due osservazioni. Uno per quello che riguarda il libero mercato, il passaggio del libero mercato, siamo in qualità di consumatore, quindi non ho altre cose. Sono passato al libero mercato pensando di risparmiare qualcosa sulla bolletta, ma ahimè prima di tutto non è facile consultare una bolletta telefonica per vedere se fino dove e come si risparmia. La seconda cosa è quello che io mi sono trovato dal libero operatore un'aggiunta del 10% della spesa della dispersione di rete praticamente che mi è stato aggiunto in base al normale consumo. Stiamo parlando di un consumo elettrico? Elettrico del Forzellino, sì. L'operatore privato, se lei fa un contratto, oltre alla la spesa di fornitura del consumo di energia, le aggiunge il 10% per la dispersione, cioè il trasporto, la corrente che viene c'è lungo la rete prima che arrivi il mio contattore. Questo non lo so fino a che punto. Chiarissimo la domanda di Quinto, e a questo punto torniamo al presidente Ortis, lo avevamo richiamato, vede che si sono aggiunti altri interrogativi sulla convenienza vera per il consumatore dello switch nel settore elettrico, dice ma qui si aggiungono altri oneri quando noi cambiamo l'operatore, che dice? Allora, rispondo al signor Quinto come alla primissima domanda a cui non abbiamo risposto, però nel frattempo mi attacco immediatamente alle notizie del giornale radio riguardante le congestioni viarie. Ecco, se ci sono congestioni viarie, come abbiamo sentito, ci sono anche congestioni sulle infrastrutture. So che questo è un tema molto caro e che l'onorevole Saglia sta seguendo con particolare attenzione, e risponde anche alla questione parzialmente del signor Enrico. No, parentesi, per fare le centrali nucleari bisognerà individuare dei nodi di rete tali da assorbire. La centrale nucleare, come è noto, è sempre in attività, ci vuole una rete intorno capace di assorbire incessantemente quello che la centrale nucleare produce. Chiusa parentesi. Da un lato, e poi dobbiamo fare anche sviluppo di infrastrutture, perché dobbiamo accogliere, ricevere, poter poi distribuire l'energia diffusa, la generazione distribuita anche di sorgenti rinnovabili a cui faceva riferimento il signor Enrico. Quindi è necessario sviluppare le infrastrutture. Su questo tema mi sono permesso ieri proprio di fare una sottolineatura, perché in questo momento di crisi e di necessità di rilancio, se c'è proprio un settore che dispone di soldi giusti derivati dalle tariffe e di soldi veri, quelli che pagano i consumatori, è proprio il settore infrastrutturale. Quindi ostacoli che impediscono l'apertura dei cantieri, lavori in questo senso, sono davvero poco in linea con le aspettative di tutti i consumatori in definitiva, perché poi quello che dice anche il signor Quinto rispetto alle dispersioni eccetera, ci fa anche dire che uno sviluppo infrastrutturale della rete migliora anche l'efficienza del sistema. Quindi se non facciamo linee avremo dei percorsi non efficienti, quindi se vogliamo ridurre le perdite e fare, come si suol dire, il virtuoso risparmio energetico, noi dobbiamo investire e sviluppare le infrastrutture. Quindi talvolta certe opposizioni sindrome NIMBY su queste tematiche impediscono efficientemente del mercato, impediscono risparmio energetico e sicurezza anche del sistema, per cui Credo che su questo punto sia stato fatto bene dal governo e dal Parlamento con lo sblocca reti che è contenuto nella recentissima legge, perché io spero che questo ci consenta di andare nella direzione giusta. Approfitto anche per dire, ha fatto bene Stagnaro a sottolineare la questione dei dibattiti sovrarappresentati, come dire, diversità, una certa diversità su un certo punto, eccetera, viene molto enfatizzato, perché non vorrei che gli spettatori avessero la sensazione di scoordinamento istituzionale, eccetera. Ci sono fior di tanti altri argomenti che vedono un lavoro istituzionale molto coordinato tra autorità, governo, istituzioni locali e compagnie cantate. Quindi, infatti questa è una delle ragioni per cui io sono un po' critico di ridurre l'appuntamento annuale della sua relazione oggi sui giornali come se fosse uno scambio di battute polemiche tra lei e il ministro, perché a me sembra un po' eccessiva questa teatralizzazione. O sbaglio, sottosegretario Saglia? Non è una questione un po' più seria? Ma non lo dico per polemica verso il ministro, ci mancherebbe altro. Credo che l'informazione su questo, sui temi dell'energia, sia un po' troppo carente, perché è una questione tecnicamente complessa che bisogna sapere portare alla tasca del consumatore, mentre ridurla a battutine così mi sembra, o no? Lei che pensa? Ma la penso allo stesso modo, anche perché la scarsa educazione energetica, la conoscenza e l'informazione che c'è in Italia ha determinato anche all'atteggiamento che hanno i media su questi argomenti. Quello che è accaduto ieri è che c'è stata una relazione annuale che dovrebbe essere nella logica, diciamo, delle autorità, come quella del governatore della Banca d'Italia. Ha delle notizie che sono fondamentali per le politiche economiche e per l'atteggiamento delle imprese. Il fatto che ci sia stato questo scambio di battute, peraltro il ministro ieri era a Bratislava, quindi ha sicuramente visto la relazione, ma non ha avuto modo di approfondirne tutti i contenuti. Io credo che sia anche determinata non tanto da una obiezione da parte del ministro sulla relazione in sé del presidente Ortis, che peraltro era di 40 pagine, sì, appunto, ma rispetto appunto ad una questione che ormai veramente sono molto d'accordo con lei. A me tocca purtroppo chiudere, perché il tempo è passato veloce. Io ringrazio il sottosegretario Saglia, ringrazio il presidente Alessandro Ortis, ringrazio caro Stagnaro, a cui ha dato, come sempre capita con gli amici, troppo poco la parola, ringrazio la regia Peter Bescapè e i miei braccio destri Gloria Guerrera e Laura Faggin. Vi do appuntamento a domani mattina alla linea al giornale radio.